Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo, la cultura, la gastronomia, concentrando l'attenzione sugli animali non umani, dei quali siamo compagni di viaggio, insieme alle piante e agli altri elementi naturali, in questa misteriosa avventura sul pianeta Terra. Oggi parleremo molto delle connessioni fra tutti gli abitanti della Terra. Parleremo di api, di allevamenti, delle vie d'uscita dall'emergenza Covid, di notizie che arrivano dal mondo animale. E lo faremo con la musica scelta da Giuseppe Coco e proponendovi la consueta ricetta di Gabriele Palloni. Nei giorni scorsi si è celebrata la giornata mondiale delle api, creature stupefacenti per la loro organizzazione sociale e per il ruolo che occupano negli ecosistemi. Questi esseri, tanto piccoli quanto laboriosi, svolgono una funzione essenziale come veicoli di impollinazione. Si stima che oltre il 30% del cibo che mangiamo sia ottenuto grazie agli impollinatori. Stiamo scoprendo l'importanza delle api in questi anni, segnati da forme gravissime di inquinamento che hanno decimato questi animali nelle campagne. Le api sono state travolte dall'agricoltura industriale. Una specie su 10 di api e farfalle europee, secondo un rapporto recente di ISPRA, è minacciata di estinzione e una specie su 3 vede la propria popolazione in declino. Albert Einstein, il grande fisico e filosofo del Novecento, disse una volta che se le api dovessero scomparire dalla faccia della Terra, l'uomo non avrebbe che 4-5 anni di vita. Speriamo che l'umanità non si trovi mai nella condizione di dover sperimentare la veridicità di questa affermazione e che riesca quindi a prendere provvedimenti che fermino la decimazione in corso. È urgente, in particolare, arrestare la guerra chimica che si combatte nelle campagne con l'uso sfrenato di pesticidi, un'arma di distruzione di massa per le api. La giornata loro dedicata dovrebbe servire proprio a questo, a spingere le autorità competenti a non permettere la prosecuzione di tale scempio. Dalle api dovremmo continuare invece a prendere esempio, come spesso è avvenuto in passato. Ha scritto Lev Tolstoi. Capii che un uomo, oltre a vivere per il proprio bene personale, deve inevitabilmente contribuire al bene degli altri. Se dobbiamo prendere un paragone dal mondo degli animali, allora occorre prenderlo dal mondo degli animali sociali, come le api. È un'indicazione importante, specie in tempi come questi, segnati da una pandemia globale che continua a stimolare riflessioni profonde sul presente e il futuro, sempre più incerto, delle nostre società. Thank you. Gli elevati e crescenti consumi di carne nel mondo, lo abbiamo ripetuto più volte fin dall'inizio dell'emergenza Covid, sono all'origine di molti dei mali del nostro tempo. La filiera di produzione della carne è un autentico flagello per gli ecosistemi e una delle maggiori cause dell'innalzamento delle temperature sul pianeta. Per soddisfare una richiesta sempre crescente, sono stati creati allevamenti di animali sempre più grandi, sempre più efficienti, sempre più spaventosi, per condizioni di vita, ma dovremmo dire di non vita, dei prigionieri destinati ai macelli. Per sfamare questa massa enorme di macchine da carne è stato necessario avviare coltivazioni estensive di mangimi, in particolare soia, a costo di disboscare enormi aree verdi. La tragedia dell'Amazzonia, come è noto, dipende in buona parte dall'industria globale della carne. I pascoli estensivi, gli elevatissimi consumi di acqua, le enormi deiezioni dei giganteschi allevamenti, l'uso abnorme di antibiotici completano un quadro disastroso e moralmente raccapricciante. Gli appelli degli scienziati si sono moltiplicati negli ultimi anni e il progressivo abbandono dei consumi di carne è una delle linee guida di tutti quanti hanno studiato la crisi climatica in corso. L'emergenza Covid ha reso ancora più evidente il problema e più urgente un intervento radicale, che ancora però non si intravede. Un piccolo spiraglio arriva almeno dai dati più recenti sui consumi di carne nel nostro paese. Secondo uno studio diffuso dall'Associazione Esseri Animali, in Italia i consumi di carne nell'ultimo decennio, fra 2010 e 2019, sono calati del 7%, rimanendo tuttavia su quantità pro capite ancora ragguardevoli. Da 81,4 kg di carne a testa siamo scesi a 76. L'indagine mostra uno spostamento dei consumi dalle carni bovine alle cosiddette carni bianche, in particolare i polli. Secondo Esseri Animali, questo cambiamento è collegato alla dichiarazione avvenuta pochi anni fa da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che le carni rosse sono sicuramente cancerogene. È evidente, ha commentato Simone Montuschi di Esseri Animali, che le indicazioni di tipo salutistico hanno giocato un ruolo fondamentale nell'influenzare le scelte alimentari. Ma vi è anche una crescente preoccupazione per il benessere animale, emersa in seguito alla diffusione in televisione delle prime inchieste giornalistiche che hanno mostrato le condizioni critiche degli animali all'interno degli allevamenti intensivi, impegno in cui Esseri Animali è in prima linea, con la realizzazione di numerose indagini. Per quanto tutto ciò sia avvenuto in pochi anni, dice ancora Montuschi, vi sono già segnali che mostrano un cambio di prospettive e di abitudini, di cui probabilmente vedremo gli effetti più importanti negli anni a venire, essendo soprattutto le nuove generazioni a recepire questi cambiamenti. Vedremo se l'ottimismo di Esseri Animali troverà riscontri concreti nei mesi e negli anni a venire. Di certo non c'è tempo da perdere. Do I ever wonder? It's hard enough to pray. Let me tell you something. There's a change. A proposito di cibo, va segnalata l'iniziativa di Million Dollar Vegan, la campagna internazionale per un'alimentazione a base vegetale. La campagna distribuirà l'equivalente di $100,000 in cibo vegetale ai professionisti sanitari e alle persone più vulnerabili in 10 paesi del mondo, 10 paesi fra i più colpiti dall'emergenza sanitaria di Covid-19. L'organizzazione annuncia che donerà oltre 117.000 pacchi spesa negli Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Spagna, Francia, Regno Unito, Italia, India, Etiopia. Million Dollar Vegan afferma che non c'è mai stato un momento più importante di questo perché le persone rivalutino la propria relazione con gli animali, scegliendo di passare a un'alimentazione vegetale e scegliendo di unirsi alla nuova campagna globale, il cui obiettivo è togliere le pandemie dal menù. Secondo Naomi Hallum, direttore di Million Dollar Vegan, se continuiamo a stressare le popolazioni selvatiche distruggendo i loro habitat naturali e catturandoli, imprigionandoli nei mercati E se continuiamo a produrre in massa animali all'interno di sudici allevamenti intensivi e a trasportarli per distanze infinite, non ci sarà modo di evitare un'altra pandemia. Durante le prime settimane di lockdown imposto a seguito della diffusione della pandemia di Covid-19, il sentire comune si poteva riassumere nel desiderio di ritornare alla normalità, più di recente possiamo avvertire un'importante inversione di tendenza. Non solo parte della comunità scientifica, socio-economica e intellettuale reclama un nuovo approccio per il futuro, ma sembra che anche i cittadini abbiano almeno in parte acquisito una nuova consapevolezza, ovvero che è la normalità che ha causato il disastro che stiamo vivendo. Anche l'AV, Lega Antivivisezione, va proprio in questa direzione. Non torniamo come prima, non è solo uno slogan, ma è molto di più. È il nuovo manifesto lanciato pochi giorni fa dall'AV per agire subito sulle cause della pandemia ed evitarne di future. 6 proposte di cambiamento che potrebbero prevenire future catastrofi di tipo sanitario quanto economico. Abbiamo chiesto a Gianluca Felicetti, presidente l'AV, di spiegarci meglio in cosa consiste esattamente questo manifesto. Noi crediamo che sia un dovere morale, prima di tutto fare in modo che le persone morte, le persone che ancora stanno combattendo con la malattia, non abbiano sofferto in vano per coloro che invece hanno avuto la fortuna di non essere contagiati e per quelli che sono chiamati a continuare a vivere. Già solo negli ultimi 10-20 anni ne abbiamo avuti di segnali d'allarme per quello che avremmo dovuto evitare e quindi abbiamo, come dire, un obbligo morale a fare in modo che quanto è successo fino ad oggi, quello che si prospetta ancora come danni da questa pandemia non si ripeta. E per farlo bisogna cambiare, quindi noi abbiamo messo assieme quelle idee, 6 proposte che riguardano ovviamente anche le normative internazionali, gli accordi internazionali, pensiamo a quello che può dire incidere sulle normative di altri paesi, o penso alle convenzioni internazionali sul traffico delle specie animali che ancora tollerano purtroppo la cattura, il trasporto, la vendita degli animali selvatici, quindi di grandi possibilità di altre malattie, ma diciamo accanto a queste che sono gli aspetti più grandi e ovviamente anche quello che deve cambiare nelle normative nazionali, pensiamo a quelli che noi riteniamo essere i nostri wet market sotto casa tutti i giorni, fiere, cosiddette feste, sagre, ci sono gli utilizzi degli animali che normalmente sono celati, negozi, attività al chiuso, ma che in diverse situazioni hanno delle caratteristiche tali quali a quelle delle che abbiamo visto, no, nelle immagini televisive che avvenivano e avvengono in Cina. Vorremmo che quel tipo di attività chiudessero, ma tanto quanto altre attività che invece abbiamo sotto casa. Questo è un po' il senso del manifesto, che peraltro poi riporta un impegno per tutti noi che riguarda quello che possiamo fare tanto anche diciamo, nel nostro quotidiano, partendo per esempio dall'alimentazione. E ancora sono ancora in corso, diciamo, gli studi, la messa in scena dei dati, ma nelle scorse settimane abbiamo sentito tutti che la propagazione del virus nel nostro paese ha coinciso molto con, guarda caso, province dove l'allevamento intensivo, il più forte nella nostra mitica pianura padana produttivista, ha avuto danni più gravi. Abbiamo visto gli Stati Uniti, no, per esempio? Sì, tra l'altro con ancora questa propagazione di oggi la notizia che anche in Germania, proprio tra i lavoratori dei macelli, così come negli Stati Uniti nelle scorse settimane, c'è stata una forte di uno o dei tanti vaccini su cui si sta lavorando, certo, come se questi fossero toccasana per poi pensare alla prossima pandemia e riprendere così come è stato fatto fino ad oggi, che avremmo compiuto davvero un grandissimo errore come umanità e non avremmo imparato nulla da questa tragica storia. Grazie a Gianluca Felicetti, presidente della LAV Lega Antivivisezione. Gianluca, se vuoi aggiungere qualcos'altro? Il manifesto si può leggere sul nostro sito lav.it, si può aderire, è un'adesione ovviamente per il momento formale, ma che permette a chi aderisce ovviamente al momento solo online di poter essere un propagatore in questo senso positivo di un messaggio che speriamo farà riflettere chi è chiamato a decidere, speriamo senza la mascherina anche sugli occhi, come se questo fosse stato una iattura, mentre invece questa pandemia, come le precedenti, è frutto di voluti errori da parte nostra, e questi abbiamo tutta la possibilità, è un po' come abbiamo scritto la cattiva notizia che siamo stati noi a causare questa pandemia, la buona notizia è che possiamo noi, certo, dobbiamo noi metterci riparo. Quindi sul lab.it può aderire e leggere integralmente il manifesto. Suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora. Ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. I migranti di Gandem, in corpi di luce, su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Insomma, tutto conferma che per avere un futuro abbiamo bisogno, non solo sul piano alimentare, di minori e migliori consumi, in modo che benessere personale e benessere del pianeta e degli altri esseri viventi tendano a coincidere. Può essere d'aiuto nella vita quotidiana, per muoversi in questa direzione, disporre di un buon repertorio di ricette, visto che la buona cucina è uno dei piaceri della vita. e può essere ottenuto senza nuocere alla vita degli altri, come Gabriele Palloni, settimana dopo settimana, ci dimostra nel suo spazio etico gastronomico. Vi ricordiamo che il nostro tosco vegan chef è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Vogliamo dare una mano alle preziosissime api, possiamo semplicemente coltivare una pianta di rosmarino che a fine primavera si riempirà di tanti fiori azzurri e viola e la vedrete riempirsi di tanti laboriosi insetti. Una parte di questi profumati fiori però la possiamo gustare anche noi. Questa è un'idea per come impiegarli in cucina. Gallette con nocciole e fiori di rosmarino. Gli ingredienti sono 200 g di farina, 50 g di farina di segale, 20 g di farina di riso, 120 g di margherina, 40 ml di vino bianco, mezzo cucchiaino di sale, un pizzico di pepe nero, 50 g di nocciole tostate e tritate, dei fiori di rosmarino, un cucchiaio di succo di limone e un pizzico di bicarbonato. Must fight against the oppressors. Power is not shared. Power is taken. In una terrina mescolate tutti gli ingredienti cercando di lavorare il meno possibile con le mani. Quindi formate un cilindro e avvolgetelo nella pellicola. Lasciatelo riposare 30 minuti in freezer. Dopodiché tagliate a fette spesse 1 cm e stendete col mattarello ad uno spessore di mezzo centimetro, spolverando la spianatoia e il mattarello con poca farina solo se necessario. A questo punto sistemate i dischi su una teglia con carta forno e bucherellate con una forchetta. Aggiungete una passata leggera di sale in superficie e infornate a 160 gradi per 20 minuti, lasciando raffreddare in forno. Abbiamo parlato nelle settimane scorse delle tragiche notizie in arrivo dal parco di Virunga in Congo, dove vivono, o meglio sopravvivono, i gorilla di montagna, insidiati non solo dalle trasformazioni degli ecosistemi, ma anche dai bracconieri che non gradiscono l'esistenza della grande area protetta, fonte fra l'altro anche di legname pregiato, molto appetito sul mercato. Sullo sfondo ci sono anche interessi economici legati al petrolio che si potrebbe estrarre dal sottosuolo. Alla fine di aprile, in attacco a un convoglio sferrato da una delle milizie che controllano parte dell'area, sono stati uccisi 13 ranger del parco. Insomma, è una situazione drammatica. In questo contesto difficilissimo, ecco la buona notizia, interviene l'attore Leonardo DiCaprio, noto per il suo impegno ecologista e animalista. DiCaprio ha donato 2 milioni di dollari destinati alla protezione del parco Virunga, che è il più antico dell'Africa. meant to cause you any pain. Only wanted one time to see you laughing. Chiudiamo come abbiamo cominciato, con le api, leggendo un brano da un libro straordinario, appena ripubblicato in Italia dall'editore Eleutera. È il libro di Piotr Kropotkin, Il mutuo appoggio, un fattore dell'evoluzione. Pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1902, è un testo straordinario, nel quale Kropotkin, geografo e geologo russo, uno dei fondatori dell'anarchismo, studia la vita animale e le società umane per dimostrare che il principio di collaborazione, il mutuo appoggio, è un principio della vita e non è in contraddizione con le leggi darwiniane dell'evoluzione. Scrive dunque Kropotkin a proposito delle api. Associando le loro intelligenze, le api riescono ad affrontare le circostanze avverse, anche impreviste e insolite, come quelle api che all'esposizione di Parigi hanno usato la loro propoli resinosa per chiudere uno sportello contro la lastra di vetro inserita nella parete del loro alveare. Fra l'altro, esse non mostrano nessuna di quelle inclinazioni sanguinarie, né di quell'amore per i combattimenti inutili che molti autori attribuiscono così facilmente agli animali. Le sentinelle che sorvegliano l'entrata dell'alveare uccidono senza pietà le api rapinatrici che cercano di entrarvi, ma le api forestiere che arrivano all'alveare per errore non vengono attaccate, soprattutto se arrivano cariche di polline o sono giovani individui che possono facilmente smarrirsi. Non c'è più guerra di quella strettamente necessaria. Per questa settimana è tutto. Vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Zenone Sovilla, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti e da chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.